Il testo che stai per leggere è composto da due parti, una parte introduttiva, parte 1, e un racconto, parte 2. Leggi la parte introduttiva e rispondi alle domande. Poi passa alla parte 2. Il processo e il naso. Se tu e io ci guardassimo in faccia, lettore, io non so cosa vedrei, perché tu sei misterioso, sei tutto nascosto nella diversità. Ma quello che vedresti tu, eccolo qua. Una faccia un po' grande, con una barba spruzzata di bianco. Vedresti due occhi piuttosto piccoli, color castagna cruda, e un naso abbastanza dritto. Però, se tu guardassi bene, molto attentamente, con un occhio solo, come fanno i pittori, noteresti che il mio naso, pur essendo dritto, non è proprio al centro della faccia. È leggermente, appena un poco spostato verso sinistra. Ecco il naso così che sono nato? No, il mio naso si è spostato dopo.